naso e guardò se butta a caso. Mai visto fare così. Tu porti un 13 al collo e un collo nel borsellino, che tocchi quando qualcuno ti dice all'alba buondì. La mia mania sei tu, amore. La mia mania sei tu, amore. Sempre le unghie, ti vedo tanto nervosa, penso che m'ami di più. Ma se tu guardi un ragazzo, mi prende la gelosia, questa è la vera mania, perché non amo che te. La mia mania sei tu, amore. La mia mania sei tu, amore. La mia Maria sei tu.